disagio nefasto, la sentenza che arriva poco prima del disastro. Il passo successivo a Demon Friend è la caduta verso il basso. L'orrido presagio nefasto, la sentenza che arriva poco prima del disastro. Il passo successivo a Demon Friend è la caduta verso il basso. La sola spiegazione per lo schifo che ogni giorno provo è che il diavolo sia Dio e la sua progenie l'uomo. Salva stento ancora tra sataniche presenze che vivono stentando e quello che hanno è niente. Viene un dubbio allora, sarà lui il mio nemico, la forza maligna che mi affligge. Di sicuro lui è ricco, io povero pezzente alle rive dello Stige. Incasso e sto zitto, sputo sopra l'Ade, cago sopra l'Ede. Il padrone che ha permesso di chiudervi dentro un lager. L'aria sta finendo, non si riesce a respirare, la gente sta morendo, faccia a terra nelle strade. I pensi nella merda si ammazzano pure la madre. O li faccia il male o li stronca la fame. E si chiedono perché, ma la risposta è facile, lo sa bene chi guadagna al mese 20 volte quello che guadagno io in tutta la vita. La mia schiena spezzata da loro bella dritta. Pensa se la terra altro non fosse che l'inferno di cui parlano. Non siamo sotto il cielo forse. E la caduta è l'inizio della fine. Ma che mondo sublime, questa stirpe incline all'efferatezza sistematica. Calcola ogni mossa, è perfetta matematica. Siamo rovinati qua, tutti matti, ma nati nel dolore perché il senso è questo. E questo ritorniamo quando andiamo all'aldilà. L'orrido presagio nefasto, la sentenza che arriva poco prima del disastro. Il passo successivo a Demon Friend è la caduta verso il basso. L'orrido presagio nefasto, la sentenza che arriva poco prima del disastro. Il passo successivo a Demon Friend è la caduta verso il basso.